puntata c'era il nostro Gigi Donelli in onda fino a pochi minuti fa qui a Radio 24, ma l'abbiamo appunto catturato perché, visto che erano occhi e orecchie attente sul posto a Bruxelles, ci sembrava la persona migliore per capire che cos'è questa agenda per il cambiamento. Ciao Gigi, grazie. Ciao Federico, buongiorno a te. Insomma, strano, no? Arriviamo da queste parole drammatiche, no? Della crisi, certo, greca, però siamo qui a parlare dell'Unione Europea. Che si legano perfettamente, perché nel passaggio che hai appunto fatto, cioè rifatto risentire o sentire di Pibax, dice insomma, non possiamo non interrogarci sulla ragione per cui dobbiamo investire miliardi, adesso vi do qualche dato, sull'aiuto allo sviluppo, quando a Naxos, visto che abbiamo appena detto, ma in tante altre città d'Europa si soffre, ci si preoccupa per un futuro in cui il tuo ospite addirittura riferiva al dopoguerra, insomma direi un'immagine, una cartolina chiara e drammatica. Ecco, le risposte di Piebalgs: da una parte ha detto l'imperativo morale è una scelta naturalmente, ma è una scelta che attinge profondamente a quella che è la cultura europea. E poi c'è tutto un altro lato sul quale forse vale la pena insistere, che la politica di aiuto alla cooperazione e allo sviluppo è da sempre un'estensione della politica estera. Le scelte, gli investimenti, il sostegno che viene fatto in alcune regioni pagano non solo nel lungo termine per le relazioni e gli affari, ma pensiamo ai grandi temi dell'immigrazione. Ora, per dare qualche cifra, l'Unione Europea, ancora una volta devo dire, è un gigante economico nanopolitico, perché il 60%, pensate, del finanziamento allo sviluppo mondiale arriva da Bruxelles, quindi dalle nostre tasse. Stiamo parlando di qualcosa nell'ordine di 50 miliardi di euro l'anno, dimensioni enormi, di cui un 20% gestito direttamente dalla Commissione e il resto attraverso World Bank e organizzazioni, perché come sapete il denaro fa grandi viaggi che appunto sono quelli attraverso le istituzioni finanziarie internazionali, le istituzioni dello sviluppo, ma stiamo parlando di soldi europei. Quindi una presenza enorme, quasi invisibile. Vi faccio un solo esempio, che è quello del Corno d'Africa. Nel Corno d'Africa in questo momento c'è una forza di interposizione, la AMISOM, che è composta da soldati africani sotto l'egida dell'Unione Africana. Bene, le spese per l'80% sono pagate dall'Europa. E potremmo andare avanti per ore così. Ecco, e lì per esempio c'è un problema di comunicazione, nel senso perché queste cose non si sanno, o queste cose di forte impatto, anche perché insomma l'Europa c'è, è presente, per la prima istituzione che aiuta, però poi l'informazione non passa, non esce, non c'è, non, e noi non vediamo il casco blu europeo, anche se ci sono. Proprio nell'ultimo viaggio che ho fatto per Radio 24 in Sud Sudan, la polizia che sta formando, la nuova polizia sud sudanese, è tutta europea, serbi, croati, sono passati gli italiani, eccetera eccetera. Perché? Probabilmente per la stessa ragione per cui l'Europa fatica ad affermarsi come entità, perché il complesso decisionale, perché il processo decisionale è complesso, perché ogni volta che si mettono insieme più di 20 stati si richiedono dei tempi di reazione molto lunghi, mentre è molto più veloce dire, e cito ancora un esempio dell'attualità, l'altro giorno il presidente degli Stati Uniti Obama ha detto: contro le truppe ribelli dell'LRA in Congo, che qui magari non seguiamo da anni, ma nell'Africa centrale un grosso problema, manderò 100 soldati. Benissimo, la notizia ha fatto il giro del mondo. Il fatto che l'Europa da oltre 5 anni stia finanziando la polizia congolese per affrontare questo problema alle frontiere è sconosciuto. Ecco, in un periodo di profonda crisi si parla di aiuti allo sviluppo. Questa cosa crea malumore, nel senso, tu hai colto anche appunto sì, qualche voce contraria? Assolutamente sì, e lo crea soprattutto in questi giorni da paesi come la Lettonia, come la Grecia. Ancora una volta sappiamo, e tu ormai meglio di tutti noi con questo programma, quanto sia complessa l'Europa. Prendiamo l'esempio dei fondi strutturali. Bene, i lettoni lamentano proprio in queste settimane una riduzione dei fondi strutturali attraverso i prelievi dell'agricoltura che li penalizza, e dicono: ma come, ci state riducendo del 10% un budget in un momento di crisi e invece presentate un'agenda for change che vanta di mantenere lo stesso grado di finanziamento per la politica internazionale, per l'aiuto allo sviluppo. Quindi certo che le proteste ci sono significative, e evidentemente sono più acute oggi che l'acqua appunto del benessere economico si abbassa vertiginosamente. Parlavi di Corno d'Africa, c'è qualche altro target particolare? Sì, dunque il Corno d'Africa è il fattore prioritario e quando si parla di Corno d'Africa per l'Unione Europea lo si considera veramente at large, come dicono in commissione, cioè dal Sudan, tutta l'area del Sahel. Ricordiamo che quella è anche la zona dove politicamente si confronta l'azione di Al-Qaeda, quindi una grande fascia dei paesi africani più poveri. L'altra zona molto importante è l'Afghanistan. Ecco, anche lì l'Afghanistan è grande intervento militare, l'Italia è presente con una forza molto importante, ma è una ricostruzione sociale imponente, tutto il processo di formazione giuridica delle corti, il tentativo anche se vogliamo dell'Europa di far sì che non si vada verso diciamo le corti islamiche e via dicendo, è quella di sostenere un processo, un'architettura in un modello che è più vicino al nostro. Bene, tutti questi processi, compresa la polizia ancora una volta, sono finanziati dall'Unione Europea. Gigi, tu da anni segui la politica estera, conosci benissimo anche le dinamiche europee. Ecco, tornando a Bruxelles, dove insomma vai spesso, che Europa vedi? Cioè, che percorso stai così dal tuo osservatorio anche personale? C'è un'Europa che c'è, che cresce, che si sviluppa, che cambia, o in questo momento vedi un'Europa stanca? Beh, sicuramente è un'Europa che prende pugni da tutte le parti. È anche vero che attraverso, appunto, quando sento la Lettonia che si lamenta, va benissimo, ma stiamo parlando della Lettonia, cioè di un paese che ancora 20 anni fa era in un'altra orbita, in un altro mondo. Insomma, la costruzione europea, a mio avviso, ha ancora tutto il suo valore, la sua ragion d'essere. È chiaro che nel momento in cui poi parliamo con i nostri amici a Naxos e dicono i nostri amici tedeschi e francesi, beh, certo, c'è un po' questa sensazione per cui, come dire, i cocci sono sempre europei e non è mai sufficiente l'aiuto. Forse è il caso di ricordarsi che tutti gli stati che lo compongono, Italia compresa, con il suo budget, con le sue responsabilità economico-finanziarie, alimentano questo sistema che non è obbligatorio ma che è molto prezioso. Basta guardarsi intorno nel mondo per vedere che cosa succede. Grazie a Gigi Donelli. Euronet.eu è il sito ufficiale del nostro network. Vogliamo ricordare anche con Radio 24 invece l'Europa viene seguita quotidianamente? Assolutamente, ogni giorno, quindi attraverso verso 24 ore in Europa e naturalmente sul web, dove si può risentire tutto il prodotto europeo. Grazie davvero, ciao, buon sabato Gigi. A presto. Europost-it. Young Europeans Love Languages. Siete amanti dello studio delle lingue? Insegnate e lavorate con le lingue o siete interessati a promuovere l'apprendimento di un altro linguaggio? Allora potete partecipare al seminario finale del progetto Young Europeans Love Languages, che si terrà il 27 ottobre a Bologna. Il seminario riassumerà il lavoro di 3 anni svolto all'interno di questo progetto europeo, dove si sono sperimentate buone pratiche, idee innovative e metodi non convenzionali per promuovere l'interesse dei giovani verso le lingue ed aiutarli nell'apprendimento. Volete partecipare? Andate su yel-project.eu. Ireland's presidential battle has sprung into life with an array of colourful candidates and controversy surrounding a senator and gay rights campaigner and a former IRA commander. We wouldn't have had the ceasefire without the input of Mark. With another of the runners and riders and ex-Eurovision winner, the largely ceremonial post is attracting more attention than usual. Dana Rosemary Scallon, better known simply as Dana, won the Eurovision Song Contest in 1970. Her campaign stresses Christian family values. Un cronista sportivo di 81 anni, un opinionista di un programma televisivo e un attivista per i diritti civili sono alcuni tra i candidati alla presidenza dell'Irlanda. Le elezioni saranno il 27 ottobre, quindi fra pochissimi giorni. È uno scenario particolare perché la varietà e il menù dei candidati è alquanto bizzarro. Per avere una fotografia di quello che sta accadendo in Irlanda abbiamo invitato il corrispondente da Roma per l'Irish Times, Patrick Agnew. Ciao Patrick. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. C'è attesa per queste elezioni? Ma direi di sì. E come avete indicato voi nella presentazione, anche quel pezzo del collega inglese, Sono state elezioni, è stata una campagna elettorale molto particolare. Ma sai, prima devo spiegare un paio di cose, perché le elezioni presidenziali irlandesi non sono come quelle italiane, cioè non è che il Parlamento vota il presidente, sì. E sono elezioni dove vanno a votare tutti quelli che hanno diritto a votare, perciò è anche un tipo di proporzionale anche. Certo. Perciò è un contesto vero, ma la cosa qui è strana qui è che essendo il posto, l'incarico essendo molto formale, alla fine il presidente irlandese ha forse ancora meno poteri di non quello che c'ha per il presidente dello Stato italiano. Ho capito, quindi è quasi un, c'è qualcosa di rappresentativo, ma nulla più. Sì, essendo così, non è una campagna che sia data a discorsi politici, ma alla fine si è concentrato tanto sulla personalità dei vari candidati. E qui c'è stato molto da raccontare. Perché... Patrick, scusami, ti interrompo un attimo, ci fermiamo per un minuto di pubblicità e poi torniamo che facciamo un po' la cartolina di questi candidati. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, l'altra Europa, 349-238-6666 per i vostri sms, oppure l'altraeuropa@radio24.it se volete contattarci via mail, ma ci trovate anche su Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, le nostre pagine ufficiali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i siti, con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Siamo in Irlanda, stiamo parlando delle prossime elezioni presidenziali, una campagna elettorale accesa ma anche divertente, perché insomma lo scenario dei candidati è quanto mai variegato. Con noi Patrick Agnew. Patrick, allora facciamo un po' una presentazione di questi candidati che hanno animato l'attesa elettorale. Sì, ovviamente prima di tutto dobbiamo dire che le elezioni si svolgono il giovedì prossimo. Sì. Scusa, intanto una curiosità, ma è tradizione andare a votare di giovedì? Okay. Anche le elezioni politiche si fanno sempre di giovedì. Perfetto. E non chiedermi il perché. Non ti chiedo il perché, lo sto per chiedere, ma mi sono frenato perché ho sentito che. No, ma di queste elezioni c'è stata un'incertezza incredibile. Basta citare solo un dato, che almeno 5 dei 7 candidati in vari sondaggi sono stati indicati come più votati. Allora, diciamo, il leader in queste corse è cambiato in continuazione. E per adesso i due chi sembra che le contestano sono forse i candidati meno interessanti, più grigi, cioè l'ex laborista Michael D. Higgins, è ex ministro. Sì. Sean Gallagher, che è uno che è legato all'organizzazione del vecchio Fianna Fáil, che è tipo il vecchio DC irlandese. Okay. Ma loro sono molto meno interessanti che non gli altri candidati, perché c'era prima c'è stato la vincitrice di un concorso musicale negli anni 70, si chiamava Dana, Eurovision Song Contest winner. Uh-huh. Sì, sì, ex cantante, vinse nel 79 l'Eurovision, quindi insomma lei già per sé è interessante, ma è stato coinvolto in un scandalo di sembra che ci sia stato un discorso di abuso pedofilo nella sua famiglia, che il suo fratello abbia abusato la sua figlia, e questo è spuntato fuori durante la campagna. Ok, quindi del torbido. Poi ha avuto un incidente di macchina l'altro giorno e ha detto che c'è qualcuno un complotto, ucciderla. Ho capito. Okay. Poi c'è il senatore David Norris, che è stato il mio ex professore dell'Università di Trinity, che sì. è un esperto di Joyce, ma è un attivista gay molto, molto attivo. E lui, per lui è venuto fuori, e lui è stato, forse avrebbe vinto queste elezioni, perché all'inizio lui andava molto forte, ma è venuto fuori che lui anni fa ha scritto un lettera alla giustizia israeliana perché aveva un amante o amante amico israeliano che è stato accusato di stupro di un 14enne ragazza 14enne israeliano. E Norris la difesa questo amico e facendo così l'hanno accusato di essere lui, anche lui un complice, proprio. Certo. Poi il terzo è ovviamente il più polemico, la candidatura più polemica di tutte è stata quella di Martin McGuinness. Sì. Per chi non lo conosce, Martin McGuinness è il secondo ministro nordirlandese e soprattutto è un ex ex comandante dell'IRA, giusto? Soprattutto quella e la sua il suo passato di comandante lì francamente l'ha seguita durante tutta la campagna, parecchie volte è stata confrontata fisicamente dai parenti di vittime della violenza IRA chiedendo a quali titoli si presentava in queste elezioni lui che è stato coinvolto in tanti assassini e questa domanda è stata anche fatta durante i dibattiti televisivi e ha trovato una risposta? Ma sì. Lui sì, sicuramente sì la sua risposta è di negare coinvolgimento in qualsiasi omicidio. Certo. Ma francamente non è che tutti lo credono. Comunque insomma non sono mancati colpi bassi mi pare in questa molto campagna bassi. Elettorale vediamo insomma probabilmente come dicevi tu i due candidati a questo punto più gettonati sono quelli forse più politici e che meno si sono esposti in queste sì. settimane però insomma l'attesa no, è tanta. Sono le due che stanno davanti adesso sono legate al Labour Party anche al Fianna Fáil che sì. storicamente è stato sempre il partito più forte in Irlanda anche se stavolta Fianna Fáil dopo la crisi irlandese il collasso dell'economia irlandese Fianna Fáil ha preso un battosto come non ha mai preso in tutta la storia di Irlanda alle elezioni politiche in febbraio. Perciò Fianna Fáil non ha presentato il suo candidato, è l'unica partita che non c'ha un suo candidato e questo Gallagher è un po' Fianna Fáil nascosta perché lui ha fatto parte dell'organizzazione del partito. Patrick, grazie davvero per averci fatto questa carrellata di quello che sta accadendo. Un'ultima domanda, tu sei anche un appassionato di calcio, stai scrivendo del calcio italiano per la tua testata? Sì, spesso. Sì? Cosa stai raccontando? Come lo vedi questo campionato con gli occhi irlandesi? No, ti stai annoiando? No, io non mi annoio mai. La cosa più interessante che è successa quest'anno è la costruzione del nuovo stadio della Juventus. Ah, perfetto. Perché il calcio italiano deve cambiare moltissimo e un passo fondamentale, un gradino fondamentale è che tutti i grandi squadre di calcio devono avere il loro proprio stadio e dovrebbero essere in grado di gestire gli stadi loro. E quindi insomma quello un bel passo in questa direzione. Sì, secondo me sì. Ottimo, grazie davvero Patrick, buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi, buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Europost-it. Voice Out. La lotta all'omofobia entra nelle scuole con il progetto NISO, che coinvolge 4 licei romani che saranno impegnati in laboratori di cinema e giochi. Uno di questi è Voice Out, un gioco in cui gruppi di studenti rappresenteranno diversi partiti politici e saranno impegnati a creare una vera e propria campagna mediatica sul tema dell'omofobia, con tanto di spot e cartelloni. Chi vincerà, tra le varie scuole partecipanti, potrà andare a Bruxelles a presentare la propria proposta al Parlamento europeo e incontrare le altre scuole europee partecipanti. Per saperne di più, nisoproject.eu. Questi sono i nostri Europost-it, dritte, segnalazioni, appuntamenti in giro per l'Europa che comunque coinvolgono i temi europei. Potete segnalarceli anche voi, l'altraeuropa@radio24.it. Cambiamo argomento e parliamo di divorzi. Sulle prime pagine dei quotidiani in questi giorni è uscita la notizia di questo divorzio rapido, divorzio low cost che si può ottenere in Romania. Le nuove leggi europee permetterebbero di divorziare anche all'estero e insomma già si sono attivati questi viaggi della speranza, appunto, queste organizzazioni per divorziare a basso costo in tempi rapidissimi. Tutto ciò pare che possa accadere con facilità, appunto, in Romania. Volevamo un attimo capire quello che la legge permette, quello che veramente sta accadendo. Abbiamo quindi invitato l'avvocato Pierpaolo Livio, avvocato di Como e legale del Consolato Generale di Romania. Buongiorno Livio. Sì, buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Allora, abbiamo letto questa notizia, è così facile ed è così economico per davvero divorziare in Romania o c'è qualcuno che già ci sta mangiando sopra? Beh, dell'aspetto mangiare, chiamiamolo così, ne parliamo magari in un secondo momento. A me premeva probabilmente fare un attimino quello che è il punto giuridico della situazione e poi magari fare qualche commento su quelle che sono certamente delle storture, certamente degli abusi che secondo me andranno repressi, perché come ho avuto modo di dire, un divorzio è una cosa seria, ricordiamoci che il matrimonio è comunque un sacramento. Mm-hmm. Ecco, quello che sostanzialmente è vero è che già dal 2003 comunque avevamo un regolamento comunitario che permetteva ai cittadini dell'Unione Europea di divorziare purché la residenza fosse nel paese e utilizzare la normativa del paese dove si era residente, quindi divorziare sostanzialmente anche all'estero. Due italiani possono, prendendo una residenza in Romania, adire l'autorità giudiziaria rumena. La Romania, contrariamente a quello che si pensa per molti aspetti della stessa, è un paese all'avanguardia in molti aspetti, certamente in quello giuridico ci insegna molto, certamente anche in quello informatico ci insegna molto. In due aspetti importanti per questo motivo, il motivo per il quale probabilmente quello vero è venuto agli onori della ribalta questa problematica è perché da circa 20 giorni è entrato in vigore il codice di procedura civile, il nuovo codice civile rumeno, che sostanzialmente permette non soltanto di adire l'autorità giudiziaria in caso di divorzio, quindi ottenere direttamente il divorzio saltando la parte della separazione, ma anche di presentarsi davanti a un notaio, cosa che invece in Italia non è possibile fare. Quindi il vantaggio di divorziare a questo punto in Romania è rappresentato non solo da una grande velocità a questo punto, che è quella dei tribunali rumeni, ma anche addirittura di poter andare direttamente ad un ufficiale di stato civile che non è un giudice, quindi con un notevole risparmio, al di là dei costi comunque di tempo e di preoccupazioni, che è quello di andare davanti a un notaio con meno formalità. Ho capito. Avvocato, la interrompo un attimo, ci fermiamo, lasciamo spazio alle informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo subito da lei. L'altra Europa. Divorzio in Romania, ne stiamo parlando con l'avvocato Pierpaolo Livio. E quindi Livio, insomma, ci stava raccontando del perché è possibile divorziare in fretta in Romania. E non ho capito la cosa della residenza, nel senso, è importante avere la residenza, ecco, quando sì, ci si sposa o quando si divorzia? No, la residenza deve essere sostanzialmente, può anche essere una residenza novella, diciamo che questo è il problema, la struttura in Romania. Di fatto cosa succede, ed è, io inorridisco a certi siti internet che pubblicizzano un divorzio chiave in mano, addirittura promettendo e garantendo una residenza che a questo punto diventa fittizia in Romania e permette poi di adire l'autorità rumena. Il caso, se vogliamo chiamarlo così, è questo. Ci sono siti, avvocati che peraltro io ho visto sono per lo più di iscritti a fori italiani, ma sono di nazionalità rumena, che sostanzialmente ti dicono: io ti trovo l'appartamento, ti trovo il contratto d'affitto, fai un contratto d'affitto anche brevissimo di 3 mesi o comunque un semestrale, appena sei residente, la residenza in Romania si chiede e si ottiene più o meno come in Svizzera, annunciandosi presso la primaria, che è la casa comunale. Sì. Il controllo certamente dovrebbe avvenire peraltro dipende dai diciamo dalle città, può essere più o meno blando, a questo punto, acquisito il certificato di residenza, due persone possono adire l'autorità rumena. Il divorzio è rapidissimo perché la prima udienza viene fissata circa dopo due mesi al massimo, diciamo, mentre in Italia abbiamo città come Milano, piuttosto che anche la mia città di Como, tempi elefantiaci, specialmente se si tratta di divorzio o di separazioni consensuali, e non dimentichiamoci che qui parliamo di divorzio, non parliamo di separazione, quindi risoluzione di tutti i rapporti di natura coniugale. L'udienza viene fissata, a quest'udienza di solito il giudice dà un termine di 30 giorni per ripensarci, lo stesso termine viene garantito anche dal notaio, davanti al quale addirittura si va semplicemente prendendo un appuntamento. A questo punto, successivamente all'udienza successiva, non è necessario nemmeno che compaiano le parti, e invece dal notaio si va una volta sola, si firma dal notaio un verbale di separazione, viene messa invece un verbale di divorzio, mentre in tribunale viene emessa una sentenza. La parte bella è che queste sentenze hanno, e questo verbale, del verbale ne parliamo tra un secondo meglio, dovrebbero avere un'efficacia diretta nel nostro ordinamento. No, ce l'ha sicuramente la sentenza. Per il verbale del notaio, siccome non esiste reciprocità in questo momento, ovvero in Italia non si può ancora divorziare o separarsi davanti ad un notaio, credo che l'ufficiale di Stato civile potrebbe avere qualche problema in più a ratificare la decisione o il verbale del notaio. Certamente ratifica senza altri passaggi giudiziari la sentenza rumena, che quindi viene direttamente trascritta nei registri di Stato civile. Okay. Vedo un grosso problema all'origine, che è quello del controllo della residenza, e vedo un grosso problema di natura fiscale, nel senso che nel momento nel quale io prendo una residenza in un paese estero, probabilmente l'Agenzia delle Entrate piuttosto che la Guardia di Finanza potrebbe avere da dire qualcosa sul punto, anche perché io, prendendo la residenza all'estero, lì delle tasse devo pagare. Certo, quindi comunque la possibilità di divorziare in tempi brevi esiste, e la legge lo prevede in Romania grazie anche all'informatizzazione, però il rischio, certo, è appunto quello di una deriva, come abbiamo detto, di questi pacchetti divorzio, certo, rapido, che già insomma sono in vendita, navigano per internet, si trovano possibilità, e poi i rischi di cui ci sta accennando ora. Ma chi volesse maggiori informazioni, qual è il consiglio che lei si sente di dare per capire come magari sì accelerare i tempi del divorzio, però senza infrangere la legge? Ci si può certamente rivolgere ad un collega che lavori con la Romania, un collega di lingua rumena, ci si può rivolgere anche a me da questo punto di vista, però si tenga conto che, siccome io sono una persona, ritengo che sono una persona seria, non si fa mercimonio del divorzio. Io lo consiglio soltanto a coppie che eventualmente, come chiamo io, hanno un fidanzamento lungo, nel senso che si sono sposate magari anche solo civilmente e non hanno figli, perché ricordiamoci che nel momento nel quale io vado a discutere di interessi economici che riguardano i figli o di interessi personali davanti ad uno stato estero, poi quello che io mi trovo in Italia, se non mi stesse più bene o avesse delle problematiche, perché in Romania non è come in Italia che è parte nella separazione o nel divorzio il pubblico ministero, che quindi svolge una funzione di grande controllo penetrante a favore dei minori, ma quello che io mi trovo e un'eventuale modifica dovrebbe ripassare attraverso un passaggio giudiziario in Italia, che sarebbe nuovamente lungo e molto costoso. Ringraziamo davvero Pier Paolo Livio, avvocato di Como e legale del Consolato Generale di Romania. Buon sabato Livio, alla prossima. A lei la ringrazio molto, complimenti per la sua trasmissione. Grazie, giusto? Grazie. Salve. E chiudiamo in musica questa puntata dell'Altra Europa, con i ritmi della pizzica, con i ritmi della Taranta, con i ritmi della Puglia, esportati in Germania e principalmente a Berlino. Lei si chiama Margherita D'Amelio, vive a Berlino da diversi anni, e lì, tra le sue tante attività, tutte legate al ritmo, alla musica e al corpo, c'è anche questo, quello di esportare le musiche etniche, le musiche popolari pugliesi. Ciao Margherita, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buongiorno. È un'altra Puglia quella che tu porti in quest'Altra Europa. Cosa c'è, una passione la tua per la musica, una passione per la tua terra, che hai fatto diventare anche una passione per i tedeschi, nel senso che c'è molta curiosità, vero, verso quello che tu stai proponendo? Sì, c'è poca conoscenza, però anche molta curiosità, chiaramente mostrandola in un certo modo e cercando di far capire ai tedeschi che cosa significa anche per gli italiani la pizzica, la, le tarantelle varie dell'Italia, e diventa molto più attraente, quindi non conoscendola, ecco, è chiaro che non è facile. Certo, ma si avvicinano con la curiosità, perché si avvicinano alla tua danza? Cos'è il passaparola? Insomma, la taranta comunque è un marchio sicuramente esportabile, grazie anche alla notte della taranta è diventata internazionale, quindi c'è curiosità principalmente sotto? Ma sì, c'è molta curiosità, ma ci sono vari motivi. C'è gente, per esempio, che è stata in Italia, che l'ha conosciuta in Italia. Se c'è gente che ci si avvicina perché per caso magari ha visto qualche spettacolo di pizzica in Germania e quindi ne è rimasta incuriosita, perché è una danza in effetti che travolge in un certo senso, no? Perché è molto liberatoria, quindi c'è le persone che sono interessate alla danza, al movimento, ci si ritrovano, no? E diciamo che in un certo senso c'è un po' un ritorno in tutto il mondo al folklore in generale, perché magari la gente, secondo me, secondo il mio parere, ha bisogno di qualcosa di diverso, cioè non ha bisogno più soltanto di vedere gli spettacoli, ma anche di partecipare attivamente. Certo. E questa è una cosa molto positiva, secondo me. C'è culturalmente, ecco, si dovrebbe lavorare di più in questo senso, cioè di non mostrare sempre soltanto il mito, l'idolo, però di far sì che anche la popolazione, perché era quello che esisteva un tempo. Certo, no? Ma Margherita, sì. Margherita, volevo giusto dare un assaggio della tua attività, ma ci torneremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Intanto do il sito, che è www.tarantellalinettascalza.de, così per chi fosse interessato. Poi grazie. Ci ritroviamo qui prestissimo per conoscere anche tutte le altre bellissime attività che hai messo in piedi. Ciao e buon sabato. Un grazie a Margherita Ina, che con me ha scritto la puntata, Viola Frifa in redazione, Giorgio De Luca Luca, oggi in assistenza Peter Bescapè alla parte tecnica. Ci trovate su Facebook oppure sul nostro sito radio24.it. La puntata sarà disponibile da lunedì. Ancora buon sabato, ancora grazie per essere stati con noi. Da Federico Taddia.